regalerò un'altra emozione, una poesia, un'aria minore, leggera come la neve, come le foglie portate dal vento, si tingono d'autunno i ricordi nel tempo, milioni di stelle che si perdono lontano, domani c'è il sole, il cielo è sereno, la vita è così. Ti fa sorridere a volte soffrire, la vita è così. Ti può far scendere oppure salire, la vita è così. È una poesia, un'aria minore, la vita è così. È così. Vita, ti ammiro in ogni tua forma, per molti sei un dono, per tanti condanna, sei una melodia, un'aria minore che si sposa con le mie parole, ti resta accanto, sfida il destino, ti accompagna lungo il cammino che sia vicino oppure lontano, poi come un bambino ti scappa di mano, la vita è così. Ti fa sorridere a volte soffrire, la vita è così. Ti può far scendere oppure salire, la vita è così. È una poesia, un'aria minore, la vita è così. È così. La vita è così. Ti fa sorridere a volte soffrire. La vita è così. Ti può far scendere oppure salire. La vita è così. È una poesia, un'aria minore. La vita è così. È così. La vita.